Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 4. Nella Kabbalah stiamo parlando dei 10 Sfirot. Queste sono le 10 emanazioni della luce, 10 sapori dei desideri. Singolare è sfira e il plurale è sfirot. Impara questi 10 sfirot in questo ordine. Keter, Chochmah, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Non c'è comprensione nella Kabbalah senza le Sfirot. Puoi confrontarlo con lo spartito di un musicista. Le lettere ebraiche sono come note per il Kabbalista. Ci sono 10 Sfirot, ma se guardi bene, vedi anche il nome Dad. Ma Dad non è una sfera. Non preoccuparti. Imparerai passo dopo passo come si arriva a conoscerli. Non fare domande. Perché no? Le domande in questa fase dello studio sono solo dall'esterno, perché tu vuoi sapere, ma è l'esterno che vuole sapere il perché, il come e quali domande sono importanti. Come vengo alla correzione? Cosa devo correggere? Ma non il perché. Il come e quale sono le domande che ti porteranno oltre. Questi 10 sfirot ci sono per ogni essere vivente. È la struttura di tutto ciò che è presente in questo mondo, è la struttura dell'edificio di tutti i poteri, di tutti i punti di forza. Quindi il nostro primo compito è: con cosa ascolto? Con cosa io osservo? Cosa deve essere attivato e porta nella tua memoria. Non stiamo parlando dell'essere esterno del corpo fisico. Tutto nella parte destra è il lato degli organi di senso interiore e non la carne. Tutti i punti di forza, i poteri che sono dentro di noi, sono anche dentro il Keter. Tutte le forze, il creatore è Keter. Puoi confrontarlo con un teschio. Keter è il teschio. E all'interno del cranio c'è Chochmah e Binah. Quando guardi la suddetta disposizione delle Sfirot, tu puoi vedere i tre punti di forza nella destra: Chochmah, Chesed e Netzach. Queste tre forze hanno a che fare con il credere, il semplice credere. Non ci sono domande se è buono o no, c'è solo il semplice arrendersi all'alto. Il lato destro è il lato del sentimento senza restrizioni. Il lato destro è anche il lato maschile. Non limitare è una forza maschile. E ricorda che stiamo parlando solo di una sola persona. Questa forza è in ognuno di noi. Ora vedi che le religioni orientali sono religioni maschili, parlano solo di infinito, del nirvana o di qualsiasi altra parola a cui si riferiscono a illimitato. Questo è il motivo per cui ad alcuni occidentali piace andare ad est. È l'attrazione dell'infinito. Ma non ha niente a che fare con lo spirituale. Quando le anime stanno venendo giù al nostro mondo, c'è subito c'è subito una separazione. Nello spirituale non c'è separazione, c'è solo interezza. Maschile e femminile sono una cosa sola. Solo nel nostro mondo, quando l'anima viene in questo mondo, c'è separazione. Non c'è una linea di mezzo per la persona che non è stata corretta. Ciò che vediamo è un'anima maschile in un corpo maschile. È un'anima femminile in un corpo femminile. Tutto dipende dalle azioni della persona. Ma l'uomo spirituale è uno. Se lo accettiamo o no, c'è il governo del Creatore. E quando l'uomo si sostituisce sopra questo governo, lui o lei sarà punito o lui o lei sarà ricompensato. Chi li sta correggendo? Ogni cosa che non è corretta? Esiste ancora, nulla scompare nello spirituale. In un certo senso, siamo tutti collegati alla morte a causa del peccato di Adam. E con un grande sforzo dobbiamo ancora correggere questo peccato. Ogni cosa è pesante. Dobbiamo capirlo. Dobbiamo venire a conoscenza di questo in tutto ciò che stiamo facendo. In tutto ciò che fai, sei tu che sei responsabile. Noi non stiamo parlando dell'inferno che appartiene alla storia. No, stiamo parlando della possibilità di purificarci. Quando muori, il corpo fisico scompare, ma tutti i ricordi rimarranno. Infatti, vedrai tutte le tue azioni, tutto ciò che hai fatto. Qui qui alla terra, perché il tuo corpo non può più imbrogliarti. E questo purifica l'uomo. Tutto andrà al suo più alto obiettivo. Non puoi sfuggire al tuo sviluppo. Quando fai qualcosa che non è lecito, ferisci ad esempio il tuo prossimo, è molto probabile nella prossima vita avrai una nuova possibilità. L'anima deve essere purificata. Ad esempio, un uomo abusa di una donna in questa vita. È possibile che nella prossima vita tornerà come donna. Come ho detto, l'anima deve essere purificata, così ora può tornare nel corpo di una donna. Ora l'anima può sperimentare come sente l'abuso nel corpo di una donna. E questo ha tutto a che fare con la legge universale di accordo sulla qualità. E non si può sfuggire da questo. Nessuno può sfuggire alle sue correzioni. Questa non è una punizione, è necessaria per venire a correzione. Tutto deve essere riparato e ognuno di noi deve fare le sue personali correzioni. È con la via dell'incarnazione abbiamo di nuovo la possibilità di correggerci. Vedi come stimolo. Così, ora diventi responsabile di ciò che senti e di quello che farai. Quindi, cosa farai? Da questo momento in poi, prendi coscienza che questo è lì per te. È un'opportunità per te. Per apportare correzioni. Non cosa era accaduto in passato. Mai commettere l'errore di vederlo nel passato, questa non è l'intenzione. Quanti di noi abbiamo già fatto questo errore? Era l'essere esterno. La persona che era ancora un bambino, che l'ha fatto. La luce non può mai commettere errori, mai. E vedilo questo. Non sentirsi mai in colpa per quello che è successo in passato. Appena tu ritorni nel passato, quello che fai è che tu porti il passato nell'ora e poi lo attraversi di nuovo. Ora è il momento di iniziare le tue correzioni, in modo molto consapevole. Allora sai vivere nel bene. Ma iniziare lentamente, diciamo sulla scala del 49% dei debiti e del 51% dei meriti. Non avere fretta. Lascia andare la colpa del passato. Sono solo ricordi. Non affrontare te stesso con il passato. Solo tieniti occupato con il bene. Cos'è l'oscurità? È solo l'assenza della luce, l'assenza della tua comprensione. Quello che ancora non capisci è come l'oscurità è niente di più. Con cosa ascolti? Senti prima un lato dell'immagine. E poi l'altro lato, perché usiamo il corpo fisico, perché l'uomo è creato in questo mondo. In questo mondo è in questo modo. Guarda ancora all'esempio dei 10 sfirot. I primi 3 sfirot sono Keter, Chochmah, e Binah. E sono conosciuti con il nome Rosh per l'ebraico e la testa, ma prova a ricordare la parola Rosh. I successivi 6 sfirot sono Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. E sono chiamati Zeir Anpin o Guf, è la parola in ebraico per il corpo. E l'ultima sfera è Malchut, e lei ha tutto a che fare con il nostro mondo. A volte parliamo di 5 sfirot, 5 stadia. Questo perché i 6 sfirot, come menzionato sopra, sono visti come uno. Il nome Zeir Anpin sta per i 6 sfirot, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. Con che cosa faccio l'esperienza? Con il lato femminile di te. Quello è il lato sinistro, dove vediamo i nomi di Binah, Gvurah e Hod. E questi tre sono sinonimo di qualità femminile, limitazione. È la moglie che dà limiti. Lei è quella che dice di no. Nello spirituale lei rappresenta la limitazione della luce. O in altre parole, fin qui arriva la mia comprensione. Ogni sfera femmina mette un limite. La prima luce era passata per mezzo di Chochmah alla Binah, e la Binah riflette la luce solo con la riflessione. Della limitazione possiamo arrivare all'esperienza della luce. Se lasciamo passare la luce, allora non c'è esperienza spirituale. Solo con la via dell'esperienza, con la riflessione della luce, le luci ritornano, ma ora con la via del lato maschile. Lato dell'infinito in cui credere, eccetera. Ricorda, senza la riflessione della luce, non puoi sperimentare la luce. Solo con con la via della riflessione, è possibile costruire un massach. Nell'ebraico è la parola che indica uno schermo. Ma è meglio memorizzare la parola massach. Siamo noi che dobbiamo limitare noi stessi per la causa dell'infinito. Ciò che vediamo nell'insegnamento orientale è l'insegnamento del lato destro, il lato dell'infinito. Tutto è illimitato. Illimitato è l'Occidente all'insegnamento di limitazione, come vediamo per esempio con il cattolicesimo. Ma la vera realtà è nella linea di mezzo. Il lato destro rappresenta l'illimitatezza. Per il dare, e il lato sinistro mette limitazioni e sta per la ricezione. E nel mezzo vediamo la vera realtà, la storia di Adam e Eva ed Eva, Chava, Adam e Chava nella lingua ebraica, e la storia della separazione di sinistra e destra. Solo in questo mondo vediamo la separazione. La luce entra nel lato maschile e la passa sul lato femminile. Quindi il femminile la restituisce. Chochmah è dare. Anche Chochmah significa saggezza, ma il suo difetto è che non può limitare la saggezza, come hai letto prima, che sia chiaro. Tutto deve essere limitato, deve essere sperimentato. E Binah dà limiti, i primi limiti alla saggezza di Chochmah. Binah è colei che lo rende adatto a ricevere. Solo quando riceviamo possiamo fare limitazioni, possiamo venire all'esperienza. In questo vediamo il maschio e la femmina hanno bisogno l'uno dell'altro. E anche noi vediamo questo, è presente in ognuno di noi. E ogni persona deve svilupparlo in lui. Solo allora Binah può riflettere la luce di saggezza e consegnarla a Chesed. Chesed sta per pietà. E il lato femminile manca della luce di Chesed, ma ora è trasmesso attraverso Chesed a Gura. E Gura significa severità e resistenza. La forza della saggezza è presente per limitare la misericordia. Puoi confrontarlo con una madre che ama il suo bambino e allo stesso tempo sa che deve lasciarlo andare. In un certo modo deve limitare il suo amore. Solo allora suo figlio può crescere e diventare adulto. Se rimane nella fase protettiva, il bambino non può imparare e lui o lei non diventerà una persona completamente sviluppata. Ha bisogno della sua severità per fare dei limiti. E solo allora, anche da questo lato, possiamo arrivare alla vera realtà, la linea di mezzo, il quale arrivano in esistenza attraverso l'interazione del lato sinistro e destro. Siamo noi che facciamo il collegamento. Ma il risultato non è nostro, viene dalla luce stessa. E attraverso questa interazione vediamo l'arrivo del Tiferet, la terza linea. Dall'interazione tra Chesed, pietà, e Gvurah, severità, sorge il Tiferet. Che facciamo, se facciamo questo lavoro. E il mio compito è guidarti alla tua realizzazione personale, alla terra del Creatore. E la sua terra è aperta per ognuno di noi. La terra del Creatore, certo. Non importa chi o cosa tu sei, è il tuo personale compimento. Questo che faccio è mostrarti la via a questa realizzazione. Un breve riassunto. La luce viene da Keter e va a Chokmah. Chokmah dà a Binah. Binah mette limitazione e restituisce la luce. La luce ora va a Chesed e Chesed passa la luce a Gvura. Gvura mette anche limitazione e riflette la luce. A causa di questa interazione Tiferet sorge. Tiferet sorge, poi la luce va a Netzach, che passa la luce a Hod. Hod riflette e da questa interazione arriva Yesod. È impossibile per l'uomo ingannare se stesso. Non posso fare niente, non posso portarti in alcun luogo. Ciò che sperimentate è la chiamata del vostro essere interiore, è l'insegnamento della tua realizzazione personale. E con la via della Kabbalah raggiungi questa totalità, se non c'è lotta da te. La Kabbalah non è un movimento, nessuna religione o qualunque cosa esista nel nostro mondo. Hai tutto dentro di te, spetta a te scoprire ciò che hai dentro di te. E il Creatore fa la linea di mezzo. Tutti gli insegnamenti orientali sono nella linea destra, danno al Creatore senza restrizioni. Sono preparati ad abbandonare il loro ego completamente. Ma la vera realtà è quella che hai entrambi i lati, Adamo e Eva, Chava nella lingua ebraica. L'insegnamento orientale non limita e senza restrizioni. Non si può arrivare alle linee centrali. Buddha sente il creatore come un infinito, fino a che l'uomo non fa un passo avanti, nel senso che vede che ha bisogno di entrambe le parti. L'uomo deve mettersi da se stesso in equilibrio e quindi il creatore fa la linea nel mezzo. E il nostro compito è trovare il luogo dell'organo di senso giusto. In Roche, nella testa, non c'è carenza. Qui non c'è bisogno di correzioni. Il posto più importante di correzione è nel Malchut, nel nostro mondo. E la destra ci dà la convinzione senza verifica. E nella sinistra c'è l'ego. Il lato egoistico dell'uomo, Binah e Chokhmah, sono punti di forza e tra di loro vediamo Dat nel mezzo, il punto centrale di realtà. E in Dat facciamo lo schermo, un kelim. E attraverso questo arriviamo alla scala della possibilità, o alla destra dove abbiamo il Chesed, o alla sinistra dove è il Gvura, o nel mezzo noi abbiamo il Tiferet. Quando sei nel lato destro, significa solo la fede senza conoscenza, a credere in ogni cosa. Quindi possono dirti qualsiasi cosa. Quando sei nella sinistra, allora sei dentro al tuo ego. Questo è il lato dove hai la sensazione che non sia ok. Il lato in cui sentiamo le condizioni pesanti. Ecco perché questo lato, il lato femminile, deve essere addolcito dal lato opposto, le forze del maschile. Tutti i problemi sono nella sinistra. Tutti i dolori e tutte le emozioni, da Gvura alla metà, dalla sinistra alla metà, questa è la parte dove noi vediamo i nostri difetti. Nel lato assoluto della sinistra è il lato assoluto della tua parte sinistra. Nel mezzo, questa è la parte che dobbiamo correggere. Quando siamo in questa parte, sentiamo sicuramente la sensazione di carenza, la sensazione di vuoto, e questo è ciò che chiamiamo restrizioni. Ed è lo stesso con Hod. In Hod troviamo i pezzi più pesanti che dobbiamo correggere. Da dove vengono? Dal Malchut. Malchut è l'io, il desiderio di ricevere per se stessi. È l'io non corretto. E ogni giorno un pezzo del tuo amor proprio, non corretto, sorge così. Ora puoi correggere questo piccolo pezzo. Il percorso è da Malchut ad Hod. Io sono il centro epico della forza creatrice. Malchut non può ricevere la luce, pertanto è creato l'uomo per essere un partner nel processo di creazione, per lavorare insieme come partner nel bellissimo processo di correzione da parte di creatore e di creazione. La correzione ha luogo dal basso verso l'alto. Da sopra viene la luce. Tutti i dolori sono incorporati dal lato più esterno al bordo interno. L'interezza sta nella linea di mezzo e solo il creatore fa questa linea. Quando guardiamo di nuovo alle 10 sfirot, vediamo il campo di false correzioni nella parte che chiamiamo col nome corpo, busto, Toch in lingua ebraica. Questi sono i seguenti sfirot: Chesed, Gvura e Netzach, Hod. Tutti i dolori provengono dal Malchut, sono in Gvura e Hod, perché Binah è nella testa, Rosh nella lingua ebraica. Non cercare di capire perché la conoscenza è limitazione. A ovest la conoscenza è al top. Quindi, ora non abbiamo la possibilità di andare a destra, ma la via è la stessa per la destra. A destra manca la conoscenza, e ciò che vediamo nella destra è anche in tutti gli insegnamenti orientali. Non seguono nessuna limitazione. A loro manca la conoscenza, l'intelletto, e perciò non possono andare a sinistra. E la vera realtà è sempre nel mezzo. Possiamo parlare della vera realtà quando vieni alla tua realizzazione. Quando hai raggiunto il tuo obiettivo, oggi vediamo come la destra o insegnamenti orientali attira la popolazione occidentale. L'uomo occidentale ha bisogno di questo luogo, la necessità di questa forza interiore. Ma solo la destra non è la strada giusta per perderci in infinito, non è neanche buono. E tra questi due lati c'è un'altra via, questa è l'area del Creatore. Solo in questa area possiamo venire e dobbiamo venire ciascuno di noi. In modo personale, in contatto con il Creatore. La falsa realtà sta una parte nella destra e una parte a sinistra. Gli insegnamenti orientali stanno avendo molta luce, Questo perché le persone occidentali sono attratte ad est, ma la luce deve essere riflessa. Tutto ciò che conta è trovare il giusto equilibrio tra il sentimento e la conoscenza. La verità giace sempre nel mezzo. Anche la Kabbalah si trova nel mezzo. La Kabbalah parla del sentimento e sulla comprensione. Mosè nella lingua ebraica, aveva ricevuto la vera realtà, le leggi dell'universo. La religione no. Quando hai intuizione, sei nella linea di mezzo. E quindi la possibilità che sarai distratto per andare a sinistra o a destra è diminuita. Anche nella religione ebraica vediamo due movimenti. Un movimento si trova nella parte destra e qui la sensazione è al top. E c'è un movimento nella parte sinistra dove la conoscenza è al top. Ma la Kabbalah ti porta all'intuizione e l'intuizione arriva solo quando hai la comprensione che nessuno di questi due ti aiuterà. Ora possiamo fare il seguente diagramma. Sinistra è femmina, intelletto, credere nella conoscenza. Uno vuole conoscere il creatore e il pensiero, la scienza è molto importante. Io non conosco lui, quindi lui non esiste. L'intelletto è molto importante, lui non può fidarsi in quello che non vede. Così ora lui divide e può analizzare e le caratteristiche di sinistra. La destra, maschio, sensazione, credere sotto la conoscenza. Uno segue, ma non pensa da sé. Non c'è il seguire e nessuna divisione. La vera realtà è quando vai in entrambe le direzioni. Devi affrontarli entrambi, come il lato di sinistra, come il lato destro. Non pensare che questo abbia qualcosa a che fare con una scelta. È un lavoro difficile e devi lavorare con entrambi i lati. E solo tu puoi andare nel mezzo. Puoi confrontare questo con il camminare. Abbiamo bisogno di entrambe le gambe per andare avanti. Nello spirituale è lo stesso. Andiamo da destra alla metà, poi da sinistra alla metà. E ognuno di noi deve fare questo nella sua via personale. Dov'è la consapevolezza, l'osservazione? Gvura ha un punto estremo. Hod a un punto estremo, e lo chiamiamo l'essere esterno. Dobbiamo andare nel mezzo, e per essere più specifici, devi andare nel lato sinistro del centro. Questa è l'area in cui puoi addolcire il tuo ego. E allo stesso tempo si sente la connessione con il Creatore. Tutti i desideri sono in te. Questo è l'ebreo spirituale in te. È il peccato. Qual è l'interpretazione della parola peccato? Tutti i desideri e forze che hai e non li hai portati a compimento, o in altre parole, non li hai portati al centro. L'universo, le leggi dell'universo sono solo il comprendere quando tu sei connesso con il tuo interno. Lezione quarto. Tante informazioni, ma quando ti rendi piccolo, minuscolo, umile, molte informazioni verranno a te e chiedi al Creatore che tu possa comprendere come venire alla comprensione. Ogni giorno devi farti all'interno piccolo per il più alto e poi la benedizione sarà data a te. Cosa intendo per rendersi piccoli, umili? Renditi vuoto, fai spazio in te stesso, così ora egli può venire a te. Questo è fondamentale, non solo per ciò che leggi o ascolti, ma è fondamentale per tutte le cose importanti nella tua vita, come per lo spirituale. Renditi vuoto, umile. E a cosa devo essere attento? Con cosa leggi o ascolti? Chi è colui che legge o ascolta? La tua testa? Il tuo cuore? O qualcos'altro? Che cosa ha bisogno di correzione? Come possiamo venire in relazione con il Creatore? Come si può arrivare alla comprensione del Creatore? Tante domande, ma solo una risposta. Solo una risposta. Tu puoi imparare ogni cosa con la tua testa, eccetto la Kabbalah. Ogni volta devi trovare in te la totalità. Quindi, a cosa devo essere consapevole? Qual è l'atteggiamento migliore in modo da poter raggiungere l'ottimale? Quando usi solo la tua testa, usi solo un aspetto della realtà. Quando usi solo il tuo cuore, anche allora usi un aspetto della realtà. Quando ascolto solo con il mio cuore, lascio altri desideri addormentati. Senti e ascolta. Non importa se c'è comprensione. In questo stadio non è importante. Il tuo desiderio è importante. Il tuo desiderio è importante. Ci deve essere il desiderio per la comprensione. Questo è abbastanza. E il tuo desiderio deve crescere. Con la crescita del tuo desiderio, tu vieni alla comprensione del tuo obiettivo nella vita e all'esperienza del Creatore. Quando il Creatore creò il mondo, egli fece un patto con gli uomini. In realtà, egli fece quattro patti con gli uomini. Ed è l'uomo stesso che deve osservare questi comandamenti. Solo poi verrà in relazione con il Creatore nella totalità. Solo quando uno osserva questi quattro comandamenti può arrivare alla vera realtà. Portalo nella tua memoria. Non stiamo parlando riguardo alla la carne, solo riguardo le osservazioni. In questi quattro comandamenti sono osservazioni da sopra a sotto. Ogni momento della tua vita, ogni minuto, devi affrontare questo e poi vedrai la vera realtà al tuo livello. Allora è quasi impossibile fare un errore, certamente per te, certamente per le persone in questo mondo stai ancora facendo errori, ma per il tuo interiore esso è buono. Questo è un grande segreto e nessuno lo ha detto questo prima. E io ti sto dicendo questo perché voglio che tu, tutti voi, diventiate la vostra realizzazione. Questo è perché tu sei qui, non per la lunga strada, ma per la strada breve. E la Kabbalah è la strada breve per venire alla tua realizzazione, completezza. L'uomo inferiore come egli è in accordo con la forza superiore così come è costruita. Il Creatore ha dato a ogni persona questi quattro comandamenti e noi siamo la parte ricevente. Il Creatore dà, è solo noi abbiamo il desiderio per ricevere. Noi siamo il desiderio per ricevere e quando noi osserviamo questi comandamenti, allo stesso tempo la nostra concentrazione si rivolge al Creatore sulle leggi dell'universo. Stiamo parlando di qualcosa che è molto più alto di quello che fa la religione. Il Creatore ha fatto questi quattro patti con l'uomo e dobbiamo imparare questi quattro comandamenti. Ogni giorno della nostra vita dobbiamo essere collegati e vivere in accordo con questi quattro comandamenti. Qualunque cosa tu fai, non importa chi sei, pensa sempre a questi quattro comandamenti, sperimentali. Allora la tua vita arriverà alla realizzazione, all'interezza. Certamente devi fare qualcosa, qualche sforzo. Non può essere fatto in una frazione di un secondo o con magia. Ogni cosa dipende dalla tua intenzione. Quindi, quali sono questi quattro patti che ha fatto il Creatore con ogni persona? Importante conoscerli. Non c'è alcun cambiamento in esso. Egli li ha fatti e saranno gli stessi sempre per l'eternità. Dal primo inizio della creazione fino alla fine della creazione, finché la forza del Mashiach verrà, del Salvatore verrà. Nessuna generazione, nessuno può cambiare questo. È dentro di noi. Ha a che fare con il nostro interiore e non con l'essere esterno.